16. Ascolta e controlla. Sabato scorso, Luisa è andata a Padova a un concerto. Ci è andata in macchina con sua cugina e sono arrivate appena in tempo per sentire l'inizio. Il concerto è finito all'1 e quindi sono restate a dormire da Stefania. Aldo, invece, non ha fatto niente di speciale. È andato da sua sorella per montare dei nuovi mobili.